Le battaglie vinte delle donne nel corso degli anni, a partire da quando le donne sono entrate da protagoniste nella vita civile, e sociale e democratica del paese, generando opportunità di emancipazione per le donne, alle donne di oggi e alle battaglie di oggi e a quelle ancora da fare per raggiungere una vera parità di genere che purtroppo ancora non può dirsi pienamente raggiunta. Ecco, si parla di indipendenza economica che manca per le donne, lo ha rivendicato anche CGIL in piazza Roma. Con il DDL STU, lo avete rivendicato qui oggi, è online anche il bilancio regionale, insomma ancora tanto lavoro da fare. Ancora molto lavoro da fare, nonostante siamo tra le regioni con i livelli più alti di occupazione femminile, gli ultimi dati del trimestre del 2025 ci dicono che l'occupazione femminile è al 68,7%, oltre 10 punti in più della media nazionale, ma ancora 15 punti al di sotto dell'occupazione maschile, quindi questo ci consegna un elemento di riflessione e ci porta a lavorare ancora di più su questi temi. Sappiamo anche che le donne sono quelle più interessate da lavori meno remunerati rispetto agli uomini, molto spesso sono sovraistruite rispetto alle mansioni che svolgono, fanno naturalmente più ricorso al part-time, a volte anche involontario, e insomma ci sono veramente tanti elementi sui quali dobbiamo rafforzare le nostre politiche. Fa parte della nostra storia prenderci cura della situazione delle donne, perché sappiamo che dalla libertà delle donne, dalla loro indipendenza dipende la libertà di tutte e tutti, e quindi questo 8 marzo è dedicato a questo.